already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. Gary, we'll be at Westglade Memorial Park. There will be a reception at the home of Harold and Sarah Cooper immediately following. And now, Karen Bowers, an old college friend of Alex's, will play one of Alex's favorite songs. Hi, really enjoy your TV show. My boys and I watch it all the time. Oh, thank you. Well, I'll see you out there. Beh, quasi ci dispiace, ci sentiamo un tantino superflui, come si dice, a interrompere questo flusso di coscienza, flusso di memoria, di ricordi. Scommetto che una percentuale di maggioranza avrà riconosciuto il tutto. Questo è l'attacco, la prima memorabile, ormai leggendaria scena di The Big Chill, il grande freddo, no? L'amico dalla faccia ben nota. Vi ricordate chi era l'amico dalla faccia ben nota, defunto, attorno al quale un gruppo di coetanei si radunano e trovano i motivi così per forse tornare vivi, no? In un certo senso, perché il passaggio di età in un certo senso li aveva un po' appunto fregati. E perché ci viene in mente tutto questo? Perché ci viene in mente il grande freddo? Perché l'America è nel grande freddo, quello che il film di Lawrence Kasdan raccontava su altre tematiche in un tempo diverso, ormai poco meno di una ventina d'anni fa, ormai sta diventando realtà. E poi va anche d'accordo, se permettete, con questa terribile giornata su Roma, il cielo di un colore di questo genere, altro che il grande freddo. Comunque la notizia, quella da cui siamo partiti, il filo che abbiamo seguito è su tutti i punti di informazione americani e fa piuttosto impressione. Nel mese di novembre sono andati perduti niente meno che 533.000 posti di lavoro, è una cifra straordinaria, eccezionale, è il massimo negli ultimi 34 anni, ha portato il tasso di disoccupazione in America al 6,7%, insomma, che comincia a essere un dato molto, non seriamente, ma molto preoccupante per le cose oltre oceano. Tra l'altro è un dato di un allarmante deterioramento, insomma, del mercato del lavoro in America, superiore a quelle che erano le previsioni, che avevano parlato di 320.000 posti di lavoro perduti in questo mese, quindi poco più della metà. Le cose sono andate ben peggio, una vera carneficina, no? Che fa ormai parlare chiaramente della peggiore crisi economica economica negli Stati Uniti dagli anni 30, insomma, dal 1930 in poi, dalla Grande Depressione poi, i posti di lavoro sono perduti essenzialmente nell'edilizia, ma poi anche in tutto il settore finanziario e poi nel settore del commercio, anche nei negozi, ma anche nei cinema, anche negli alberghi. Gli unici posti dove le cose non vanno male, anzi sembrano in ripresa, sono i settori dell'educazione, della sanità e poi il governo, che sta in questo momento mettendo sul mercato una bella offerta di posti di lavoro, anche, ma non solo, per il ricambio dell'amministrazione. Ne parlano tutti, ne discutono ininterrottamente, instancabilmente su tutti i media, tutti i giornali americani. Vengono interpellati naturalmente analisti, professori, ma anche quelli che magari nel corso della loro vita hanno conosciuto un grande successo e quindi sembrano avere, con i termini dell'economia americana, una familiarità, una fluidità di rapporti. Un nome per tutti, Bill Gates, che sta apparendo piuttosto spesso in televisione in questi giorni, anche se ormai, come lui chiarisce sempre, il suo lavoro è un altro, ma insomma è uno che i conti con l'economia americana li sa fare bene. How worried are you about the US economy right now? Well, we're in uncharted territory and we're certainly going to have a fairly serious recession. I think the right things are being discussed. Dice che l'economia americana è un territorio molto instabile in questo momento, che la recessione è un dato di fatto serio col quale fare i conti. As people cut back on spending, that means jobs get cut back. Ed eccolo che sottolinea un argomento che cominciamo a sentire risuonare spesso anche nelle nostre orecchie. Gli americani stanno smettendo di consumare, eccitano naturalmente, no? La perdita di lavoro in tanti settori di una società come quella americana, che proprio sul consumo basa buona parte della circolazione della propria economia. Bill Gates si è detto preoccupato, ma non pessimista, e poi ha ribadito che comunque il suo lavoro a tempo pieno adesso è di presidente della sua fondazione, e la fondazione Gates, quella a cui ha dato, se non sbaglio, una quarantina di miliardi di dollari Warren Buffett, l'uomo più ricco d'America, si occupa di filantropia peraltro non solo in America ma in tutto il pianeta. Ha anche detto Bill Gates che se ci fosse una commissione o un compito molto preciso a cui potrei contribuire, sarei lieto di prenderlo in considerazione. In sostanza, se Barack Obama farà un fischio forte e chiaro dalla Casa Bianca, Gates potrebbe ben volentieri spendere parte del suo tempo al servizio del nuovo governo americano. Bill ha incontrato insieme a sua moglie Melinda il vicepresidente eletto Joe Biden, e secondo il Washington Post Gates e Biden hanno parlato di molti argomenti, in particolare dei problemi sanitari mondiali, che sono quelli che stanno più a cuore di Bill Gates, sono quelli nei quali la fondazione Gates riversa gran parte dei propri capitali, per esempio i vaccini per i bambini del terzo mondo, questioni così piccole come queste, ma straordinariamente affrontate con straordinaria competenza e anche con straordinaria energia da un gruppo di lavoro con la potenza, no, di fuoco, la potenza economica che ha la fondazione Gates. E poi naturalmente anche le risorse per l'istruzione secondaria e i college pubblici, che sono altri due punti che stanno particolarmente a cuore di Bill Gates. Dunque, vediamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avete fatto tutti centro, Kevin Costner. Avete centrato. Lu chiede: ho vinto qualcosa. Adesso chiederò a chi di dovere dall'altra parte del vetro cosa puoi aver vinto, indovinando che Kevin Costner era l'amico morto, no, del Big Chill. Stanno già facendo delle proposte, poi dopo magari ti riferisco. Kevin Costner, Andrea da Genova, The Big Chill, grazie di esistere, credo a The Big Chill, purtroppo non a noi. E poi le sequenze con lui vivo furono tagliate nel montaggio, scrive Andrea, un ragazzo sapiente, giusto. Allora, a proposito di nascente amministrazione Obama, arriva la notizia che l'ex capogruppo del Senato Tom Daschle, che è diventato nel frattempo coordinatore per la sanità dello staff di Barack Obama, partecipa a un dibattito che si svolge in Colorado sulla riforma del sistema sanitario nazionale, che, diciamo, dopo l'emergenza economica è il principale problema a cui l'amministrazione Obama guarderà nell'immediato, almeno per quello che riguarda le questioni interne. Sulle questioni internazionali sappiamo bene da che parte guarderà. Gli elettori statunitensi hanno messo infatti la riforma sanitaria al terzo posto tra le loro preoccupazioni, dopo appunto l'economia e l'Iraq. Durante la campagna elettorale Obama si è impegnato a garantire assicurazione sanitaria a 47 milioni di cittadini non ancora coperti e spendere a questo proposito 50 miliardi di dollari per informatizzare i registri sanitari. Esce su The Politico un'interessante lista dei 5 posti caldi su cui Obama deve prendere una decisione, a chi assegnare 5 poltrone come dire interessanti ma complicate, che presto però dovranno avere un occupante, perché si avvicina sempre più, manca poco più di un mese ormai all'insediamento della nuova amministrazione. Uno di questi posti è il segretariato dell'energia. Il favorito in questo momento sembra il governatore del Michigan, la governatrice anzi del Michigan, Jennifer Granholm. In corsa ci sono anche personaggi interessanti parlando di energia, come ad esempio Sonal Shah, no? Che è il capo degli sviluppi dei progetti di ambito ambientalistico di Google, o anche Dan Riker, che invece è un ex degli staff clintoniani, uno degli antesignani delle energie rinnovabili. Poi c'è il posto di direttore della CIA, ci sono tanti nomi in corsa. Il preferito dai media americani in questo momento è quello di Tim Romer, che è un congressista dell'Indiana che ha fatto parte della commissione sull'11 settembre. Poi c'è il ministro del lavoro, e qui spunta un nome che ha fatto a lungo parte delle liste, degli elenchi di possibili compagni di ticket di Barack Obama, un'altra signora per la precisione, Kathleen Sebelius, che è poi la governatrice del Kansas. Poi c'è l'ufficio del tecnologico, diciamo il ministero tecnologico. E qui il nome preferito ancora una volta si rifà a Google. Pensate un po', quindi, che laboratorio, no, di splendidi cervelli si nasconde sotto questa sigla, se è vero che Vinton Cerf, che è ritenuto come dire l'evangelista di internet via Google, sembra destinato a occupare questa poltrona. Io metterei Google più Harvard e avrei, credo, più University of Chicago, e credo che avrei una buona prima descrizione per spiegare da dove viene questo governo, nascente governo Obama. E infine il direttore della National Intelligence, ovvero dei servizi segreti interni, per il quale si fa il nome di un ammiraglio ritirato ma tuttora potentissimo negli ambienti militari, che si chiama Dennis Blair. Continua la descrizione di questo banchetto, diciamo, mediatico, che avrà luogo il 20 gennaio. Cresce la febbre per l'Inauguration Day. Quel giorno ci saranno dai 3 ai 4 milioni di persone in più a Washington. Adesso si parla anche di 5. Adesso cominciano a scrivere tra i 4 e i 5 milioni di persone sul Mall, no? Quel vialone lungo circa 3 chilometri che va dal Campidoglio fino al Lincoln Memorial. Il responsabile esecutivo dell'organizzazione, che si chiama Emmett Béliveau, ha dichiarato: siamo grati alle autorità federali, militari, locali per gli sforzi che stanno facendo per permettere che possano essere presenti all'Inauguration Day tutte le persone che lo desiderano. L'apertura integrale del National Mall non era mai avvenuta negli ultimi anni, ma si prevede una affluenza di persone di portata eccezionale. E tra l'altro, se ci siete stati lo sapete, se no ve lo raccontiamo noi, il posto è straordinario, cioè veramente questa spianata però nel cuore monumentale neoclassico di Washington, è un luogo al tempo stesso della memoria, dell'evocazione dello spirito americano. Pensare a 4-5 milioni di persone, tra cui il presidente, che va onorato e protetto, tutti insieme lì in una fredda mattinata di Washington, insomma, vengono un po' i brividi lungo la schiena. Infine, una notizia che arriva dallo staff Obama: si chiede ai famosi donatori, no, gli uomini che hanno, anche questa notizia di oggi, raggiunto circa il miliardo di dollari in quattrini versati a favore del candidato, che nel frattempo però è diventato presidente degli Stati Uniti d'America, di come dire, spostare un po' delle loro donazioni in favore di un'altra signora, di dare qualche soldino, qualche liretta anche a Hillary Clinton, che è assai nei guai con i suoi debiti, che sono molto forti, sono di diversi milioni, in particolare 7,5 milioni di dollari deve a vari fornitori tecnologici, telefoni, fotocopiatrici, quella roba lì, e sia Biden che lo staff di Barack Obama hanno detto: per favore, aiutate Hillary. City freeze, get on your knees, pray for warmth and green paper. A city drought, you're down and out, I see your trousers don't taper. Saddle up, kick your feet, ride the range of a London street. Travel to a local plane, turn around and come back again. And at the chime of a city clock, put up your roadblock, hang on to your crown. For a stone in a tin can is wealth to the city man who leaves his armor down. Talk with neighbors only. For games you play, make people say you're either weird or lonely. A city star won't shine too far on account of the way you are, and the beads around your face make you sure to fade back in grace. And at the beat of a city drum. E mica l'abbiamo messo a caso Nick Drake, prima di tutto perché lo amiamo sopra ogni altra cosa, poi quando il tempo è così a noi ci prende di Nick Drake e magari vi prende un po' anche a voi. Un breve intervento soltanto per raccontarvi del possibile esito di un'altra storia americana, che più americana non si può. L'abbiamo seguita a più riprese, l'abbiamo a un certo punto anche serializzata un po' per una vecchia affezione, non certo col personaggio, anzi, che all'aria forse meno pericolosa di prima, ma al tempo stesso un po' stordente, così, no, dal punto di vista della socialità, ma per quello che rappresenta appunto di americano. Parliamo di O.J. Simpson, ricorderete, reduce inspiegabile, al tempo stesso formidabile, di un grande processo anni 90, il processo del guantino, no? Il guantino che doesn't fit, che non mi entra, e riuscì grazie al suo dream team di avvocati avvocati a farsi assolvere dall'accusa di aver ucciso a coltellate la moglie e un amico della moglie capitato per sbaglio a casa in quel momento per riportarle un paio di occhiali, una accusa che lui stesso in un certo senso ha irriso a suo tempo, scrivendo addirittura un libro per farci quattrini sopra, un libro intitolato Se l'avessi fatto io, in cui faceva fa finta di ipotizzare di aver veramente ammazzato sua moglie, tanto due volte per lo stesso delitto non lo possono processare. Poi però la giustizia americana è piuttosto vendicativa, è stato incastrato un annetto fa in una storia stupida, in una storia al limite del teppismo a Las Vegas, insieme a un gruppo di sconsiderati, un po' delinquenti, ha fatto irruzione in una stanza albergo di Las Vegas dove c'erano dei collezionisti di memorabilia sportive, molte delle quali proprio sue, perché forse saprete, O.J. Simpson è stato un grande campione del football americano, ha inscenato una specie di sequestro, di rapina, si è ripreso le cose e adesso gliela stanno facendo pagare carissima per questa storia, a cui sono state legate addirittura accuse di sequestro di persona, tentato omicidio, in un certo senso gli è stato presentato tutto il conto che non ha pagato, diciamo, nel corso della prima visita alla giustizia americana. Ed è degli ultimi minuti la notizia che è in arrivo la sentenza per questo caso O.J. Simpson. Andrà sicuramente in galera, questo è certo, bisogna soltanto ancora capire quanto a lungo ci andrà. Poi bisognerebbe capire anche chi lo piangerà. Comunque i termini di tempo per quello che riguardano i ben informati, in particolare su CNN, parlano di una condanna compresa fra i 6 anni e sempre, ovvero l'ergastolo. Pagina. Dunque, prima un po' di notizie, come dire, note di servizio. Prima di tutto stiamo aspettando un grande amico nostro e vostro, però quello che c'è in scena a Roma oggi, ve l'abbiamo già detto, qui la città insomma è sotto sforzo, diciamo così, c'è la pioggia, c'è il traffico ai livelli. E l'amico ha detto neanche leggendari. A Shanghai ho visto cose del genere. Ecco, neanche a Shanghai, insomma, forse avrebbe fatto prima arrivare da Shanghai che da raccordo anulare, speriamo che ci raggiunga, volevamo farvi insomma una sorpresa e quattro chiacchiere in studio con lui, vediamo che succede, al peggio ci sentiamo per telefono. Poi abbiamo scoperto che c'è un sito Facebook di Jefferson Ming e ne siamo entusiasti, anche se non siamo ancora riusciti a entrarci, ma lo faremo presto. E poi ci scrive Giancarlo e ci chiede se il luogo dell'insediamento di Obama è quello dove si vede, è quello che si vede in una scena di Forrest Gump. Sì, è quello che si vede nella scena di Forrest Gump, in cui, se non sbaglio, Forrest Gump partecipa alla marcia di 1 milione di persone, ma vorrei dire una sciocchezza, comunque quel famoso vialone che c'è da una parte Lincoln seduto, no? E poi lì ci sono state girate qualche centinaio di film, scene d'amore, di guerra, di separazione, girata la scena di JFK, la scena chiave di JFK, no? Sulla panchina, insomma, è l'America. Poi Joel ci chiede se vogliamo parlare del licenziamento del coach dei Toronto Raptors, ma è appena finito il programma di basket di Radio 24 e insomma sarebbe un'invasione di campo. Di Belinelli abbiamo letto anche noi la protesta, la vibrante protesta, però ci poteva pensare prima chi sia Don Nelson, gli americani lo sanno, secondo me lo sapevano anche gli italiani prima che ci andasse. E poi un ascoltatore privo del benché minimo senso dell'umorismo dice: la vaccinazione di bambini di tutto il mondo una piccola questione. Beh, non hai proprio capito, forse devi stare più attento. Io ho detto che Bill Gates si occupa di una piccola questione come la vaccinazione dei bambini di tutto il mondo, insomma, che proprio in quanto tale, no, per definizione tanto piccola non è, quindi è così, magari queste male parole che ci inviba. Bene, detto questo e chiarite le cose, a te la parola. Allora, un po' di rassegna stampa, partendo da quello che direi uno dei peggiori incubi dei cittadini di tutto il mondo, non solo gli italiani, cioè il petrolio e il suo prezzo che qualche mese fa è arrivato ad un valore stellare, forse anche eccessivo, con speculazioni pazzesche. Beh, adesso è già sceso ai minimi da gennaio 2005, ieri è stato quotato a $44.30 al barile. Però c'è una proiezione di Merrill Lynch che dice che il petrolio nel 2009 potrebbe arrivare ai livelli di $25 al barile se la recessione colpirà anche la Cina. Quindi insomma questa è la condizione sine qua non. Si potrebbe avere il petrolio addirittura a un valore dimezzato rispetto adesso, con quindi la recessione che dovrebbe colpire la Cina. La Cina sta dando segni di leggeri scricchioli nella sua economia, non più galoppante come qualche anno fa e qualche tempo fa, però forse parlare di recessione in Cina è davvero un'ipotesi prematura. Qui c'è anche il buon vecchio sano campanilismo di una volta, se poi ci possiamo anche misurare centro contro nord, perché ci scrivono: ma Roma, aspetta, devo fare l'accento, ma Roma si ferma per 2 gocce di pioggia? Roma quando piove. Ah, tu vedo che subito solidarizzi con il messaggio. Questi, prima di tutto, non sono 2 gocce di pioggia, ma credo sia l'anticamera del diluvio universale, insomma, che guarda il colore del cielo. Poi Roma si ferma per 2 gocce di pioggia, la risposta è sì. Se vuoi posso rincarare la dose. Sì, la risposta io, è sì. Peggio di Roma, ho visto solo Palermo con la pioggia. Bene, però ecco, andiamo avanti. Un'altra notizia. Allora, sempre Cina e Stati Uniti connessi. Tra l'altro in questo momento c'è Paulson che sta facendo i suoi viaggi importanti, preziosi, soprattutto per il futuro dell'economia sia della Cina che degli Stati Uniti a Pechino. E lo stanno indottrinando i cinesi. È uno degli argomenti che abbiamo pronti per una il volta nostro ospite. Parlo anch'io di Barack Obama in versione cinese, perché tra le tante poltrone che deve sistemare, tu prima Stefano hai fatto un ricco elenco di poltrone ambite, ci sono anche quelle degli ambasciatori, soprattutto in piazze delicate, importanti come la nostra Roma, Londra, Parigi e naturalmente Pechino. Allora, su Pechino circola il nome di uno ricchissimo che è John Thornton, che è ex presidente di Goldman Sachs, che si è appena dimesso da direttore dell'Industrial and Commercial Bank of China. Ci citando in una nota nuovi impegni di affari, quindi forse sa già che andrà a ricoprire questa carica, presumo da gennaio dell'anno prossimo. Tra l'altro, in questa agenzia che riassume un po' la situazione precaria di alcuni ambasciatori si fa anche il nome di Ronald Spogli, l'ambasciatore americano qui a Roma, e si dà, diciamo, per partente, assieme poi a tutti gli ambasciatori, quello alla Santa Sede che è Mary Ann Glendon, ma anche quelli francesi e inglese a Londra. Sì, ci sono indiscrezioni sul nome. È un valzer inevitabile. Sì, questo, beh, no? Quello è inevitabile legato alle amministrazioni, ma si parlava poi, insomma, di un grande cognome per l'Italia, un cognome come quello dei Kennedy, insomma, ma sono a tuttora indiscrezioni tutt'altro che confermate. Invece vi volevo dare una notizia di spettacolo, perché c'è grande entusiasmo sulla prima pagina di Variety, la Bibbia dello spettacolo americano, per l'uscita, tra l'altro credo sia il secondo film in un anno che presenta Clint Eastwood, e l'uscita di questo film è salutata come quella di un vero e proprio capolavoro. Tra l'altro è buffo, il titolo in un certo senso ci richiama, no? ci richiama la nostra attenzione. Il titolo è Gran Torino, però non si tratta né della città del Piemonte, non si tratta neanche della omonima squadra di calcio che trionfò nel dopoguerra, ma si tratta di una macchina che per l'appunto aveva questo nome, una macchina anni 70, una macchina sportiva, di cui è proprietario il protagonista di questo film, firmato e interpretato da Clint Eastwood, quindi il suo Walt Kowalski, così si chiama questo personaggio, che già dal nome si capisce che è sicuramente un reduce di un paio di guerre, è sicuramente un uomo disincantato che vive la sua vita solitaria curando e lucidando la sua Gran Torino, fermo restando che il quartiere nel quale vive sta cambiando faccia, il quartiere sta diventando un quartiere abitato non più da americani tutti di un pezzo come lui, ma stanno arrivando gli asiatici, soprattutto in particolare i vietnamiti, e quindi per un veterano potete capire anche così il sommovimento emotivo. E allora a quel punto Walt Kowalski, qualcuno tra l'altro se la piglia inevitabilmente con la sua Gran Torino, e lui prova a rimettere le cose in ordine, e il film è stato accolto in modo trionfale dalla critica americana, che parla di una asciuttezza senza paragoni, di una capacità come nessun altro in questo momento ha di capire l'America, soprattutto l'America molto adulta, quella anche molto disincantata, quella anche che magari non ha trovato in McCain il candidato giusto che avrebbe sognato, ma qualcosa del genere le sarebbe piaciuto. Allora, oggi è giorno di vigilia di questo ormai famoso, chiacchierato, discusso, polemizzato incontro che Nicolas Sarkozy avrà con il Dalai Lama in Polonia, e i cinesi sono già da giorni, lo stiamo anche commentando qui quotidianamente a Jefferson Ming, partiti al contrattacco, e come già è successo nei mesi scorsi con boicottaggio ai prodotti francesi, anche in questo caso si sono scatenati quelli che poi vengono riassunti in una definizione un po' tipica, insomma, di noi giornalisti, il popolo di internet, questa valanga di 250 milioni di internauti cinesi. Credo che la Cina abbia fatto il fatidico sorpasso nei confronti degli americani, sono pronti a lanciare queste catene di Sant'Antonio via web, via internet, per boicottare i prodotti cinesi. Intanto c'è il quotidiano Global Times che alza la temperatura, perché dice di aver fatto un sondaggio secondo il quale il 97% delle circa 8.000 persone consultate sono d'accordo nel boicottare i prodotti francesi. È un sondaggio partito il 28 novembre scorso. Tra l'altro la grande risposta cinese al boicottaggio dei prodotti francesi partì soprattutto ad aprile, però questa volta pare che il governo cinese stia un po' cercando di contenere la protesta dei suoi concittadini, e insomma, forse vuole evitare strappi ulteriori con Sarkozy e con la Francia. E infine, pochi minuti dopo l'apparizione di quel dato, di quella cifra preoccupante, anche per certi versi drammatica, con cui abbiamo aperto il programma, ovvero i 533.000 posti di lavoro persi dall'America nel mese di novembre, che ha portato l'indice di disoccupazione al 6,5%, oltre 6,5%, arrivano già dei dati, come dire, di reazione, dei dati di elaborazione di quelle che possono essere le strade percorribili per per tornare indietro, per far tornare le cose in una atmosfera più potabile. Ne parla Moody's, Moody's Economy, il cui direttore delle macroeconomie, che si chiama Gus Faucher, parla per la prima volta, ha il coraggio, insomma, per la prima volta di fare una cifra per il famoso stimulus, no? Lo stimolo economico che il governo americano si deve preparare a versare per far ripartire, a investire per far ripartire l'economia americana. Per la prima volta viene fatta la fatidica cifretta, un trilione. Allora, alla fine abbiamo perso la nostra battaglia con il traffico di Roma, hanno vinto i nostri ascoltatori così sfottenti, dicono: ah, Roma, vi siete fermati? Sì, ci siamo fermati, non tanto noi, ma il nostro cuore si è fermato insieme alla macchina di Saro Capozzoli, veterano, amico, nonché di solito inviato da Shanghai di Jefferson Ming, in questo caso, come dire, smarrito per le strade di Roma o forse semplicemente nel traffico di Roma. Buon pomeriggio, Saro. Sì, buon pomeriggio, scusate questo ritardo. No, dobbiamo subito procedere a un confronto, è inevitabile. Ci devi fare adesso una scheda confronto tra il traffico di Roma quando piove e il traffico di Shanghai quando piove. Il traffico di Shanghai quando piove, come qui a Milano, a Roma, è difficile trovare un taxi, no? Infatti oggi ho avuto anche difficoltà a trovare un taxi. Il problema è che le strade sono forse meno intasate, perché sono strade molto più ampie. Sono state costruite strade nuove, sono state abbattute case vecchie per far spazio a più corsie, e quindi c'è una differenza è questa. A Roma purtroppo in certi punti non si può toccare, no? Per vari motivi, e lì questa è un po' la differenza che vedo, perché io sono entrato in Roma alle 3, sono a 4:30, fatto 13 chilometri, per me è inverosimile, ecco. L'ultima volta che hanno abbattuto a Roma, poi come dire, ci sono state insomma un po' di problemi. Vi dico un aneddoto, no? Una volta ero con una delegazione cinese a Perugia, uh-huh. No? E ci siamo trovati incastrati col pullman in mezzo alla stradina, uh-huh. Un pulmino, E i cinesi mi hanno detto: ma scusate, ma perché non buttate tutte queste certo. case vecchie e allargate le strade? Perché volete vivere male per cose fatte mille anni fa? Per dire, no? Vagliela spiegare, non è facile. Comunque è sempre un piacere sentirti. Volevamo proporti un paio di argomenti che sono insomma sì. in circolo in queste ore. Prima di tutto questa interessante questione di Hank Paulson, no? il segretario del Tesoro americano, che pare, almeno così dice il Financial Times, pare sia andato a lezione, o perlomeno gli sia stata rilasciata, non so se richiesta o no, una vera e propria lezione di economia in questi giorni a Pechino. In sostanza, rappresentanti del governo cinese gli hanno detto di essere molto preoccupati per gli andamenti americani e gli hanno chiesto di correre a una serie di rimedi, che poi sono quelli che più o meno conosciamo, ma in particolare di spingere, di tornare a spingere gli americani al risparmio. Come ti suona una frase di questo genere? Sì, certamente. Io quello che dicevo qualche volta fa, che ci sono sentiti, io prevedevo che i cinesi ormai saremmo saliti sulla cattedra a dire un po' la loro. E quello che sta accadendo adesso, cioè i cinesi ora hanno questa attitudine che era un po' latente, ma adesso la stanno esplicitando, di dire: ok, io ci devo mettere i soldi, però ascolta me, come io che cosa farei io. Mm-hmm. E ci sono non solo loro, ma anche io conosco dei funzionari della Banca Mondiale che sono andati di recente a Pechino a discutere anche alcuni punti delle nuove riforme economiche da fare nel sistema americano proprio con i cinesi. Certo, certo. Quindi diciamo, questo è una tendenza che andrà sempre più rafforzandosi. Sì. Senti, so che sei reduce da Milano e so che ormai sono sempre più numerose le delegazioni italiane, ma in particolare milanesi, che invece si aggirano per Shanghai, perché esiste questo filo rosso che si chiama Expo. Tu, facendo i raffronti tra quello che ormai è in avanzatissimo stato di realizzazione a Shanghai e quello che hai cominciato a intravedere a Milano, vedi dei riflessi, vedi delle connessioni? Ma io penso che con l'Expo di Shanghai era già stato tutto definito già anche prima di avere il progetto, cioè di aver aggiudicato questo evento. Io vedo a Milano ci sono ancora delle resistenze su chi dovrà dirigere questa cosa, e probabilmente ci sono neanche i soldi. Ecco, Shanghai ha avuto questa occasione, ha emesso un bond e ha raccolto in poco tempo 4 miliardi di dollari dal risparmio cinese per poter, e quindi in RMB, per poter affrontare le prime spese. Ecco, questo è un po' una tendenza che vedo. In Cina si programma, si progetta, non si fa nulla senza pianificare, pianificazione. E vedo molta approssimazione, molta improvvisazione, ecco, in quello che sta accadendo, perché il 2015 non sembra, ma conoscendo i tempi italiani certo, sono molto certo. vicini. Tenete conto che se andate adesso a vedere a Shanghai i cantieri, sei mesi fa non erano ancora stati alzati i primi pilastri, ora ci sono dei capannoni dell'Expo che sono già arrivati al tetto, no? Quindi vi fa capire questo un po' la sensazione. Io penso che sia meglio che la politica si metta d'accordo. Io voglio dire questo, però è quello che è la mia sensazione da esterno, per poter appunto fare il bene comune, il bene dell'Italia, perché questo è un discorso dell'immagine. L'immagine d'Italia, che se dovessimo arrivare all'appuntamento in ritardo, come è successo, quasi in ritardo, come è successo con le Olimpiadi di Atene, che hanno stretto gli ultimi bulloni la sera prima. Senti, un'ultima cosa, prima di lasciarci, rapidamente, la Cina fa cose di questo genere anche perché, ce ne hai parlato al telefono, sta diventando possibile questo progetto di tunnel, per esempio, tra la Cina e Taiwan, è realistica la cosa? Ma adesso è un momento di grande fermento, di grandi decisioni. Stanno mettendo giù i progetti del prossimo ventennio. Certo. Si parla di questo tunnel di 140 e passa chilometri sotto lo stretto che separa Taiwan da Xiamen, e anche altri tunnel, cioè, e ponti molto lunghi, ecco, cose di cui si è parlato, ma adesso c'è stata un'accelerazione, cioè in un momento di crisi la Cina investe, perché deve dare, alimentare la propria industria, certo, e io penso che in certi settori anche l'industria mondiale potrà approfittarne, si fanno treni, hanno varato questo piano che dovranno fare 56.000 chilometri di ferrovie nei prossimi 3 anni. Bene, numeri che... sono numeri straordinari e insomma, a buon intenditor poche parole. Ti ringraziamo molto, Saro, prendi un respirone e rimmergiti nel traffico romano a questo punto. A presto. Allora, per concludere, una agenzia, a proposito di Kennedy, cognome che avevamo evocato poco fa, fa sapere che Caroline Kennedy, vicina a Barack Obama, sarebbe molto vicina invece a questo punto a prendere il posto di Hillary Clinton al Senato, se la Clinton lo lascerà vacante come nuova segretaria di Stato. Insomma, i cognomi sono un po' sempre quelli. Ma ci hanno garantito il change, noi stiamo qui ad aspettare. Ascoltatori vogliono sapere il titolo della canzone di Nick Drake in apertura del programma, si chiama At the Chime of the City Clock ed è il memorabile brano di apertura di Brighter Later, più sereno più tardi, il secondo album, insomma il capolavoro assoluto di Nick. E altri ascoltatori mi precisano, anche con una bacchettata sul naso, che la Gran Torino, Ciccio mi dicono, è la Ford macchina di Starsky e Hutch. Detto questo, ho detto tutto. E io vi prometto qualche sorpresina per la prossima settimana, ma potrete vedere e ascoltare, anzi con i vostri occhi, qui da Jefferson Ming, dove ci sono io, Stefano Pistolini, in redazione Milano Enrico, in regia a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Pietro Lacorte, un indirizzo mail, Jefferson Ming è tradi24.it, adesso abbiamo scoperto anche un sito Facebook, una replica alle 21 di questa sera e una diretta lunedì attorno alle 4, come sempre qui da Radio 24. 这游戏的人决心靠边站，狗狗说着非常灵敏，可以闻到很多东西，却又色盲黑白分辨不清，观众也就跟着相信。最重要的是对得起自己不变的道理，高手过招戴着面具，显得我的动机先硬。我回家去，打坐去学生养性，沉默的人最聪明，不做无聊的回应。